speciale, la politica nel tunnel. Proclamo il risultato della votazione con appello sulla mozione di fiducia al governo. Senatori presenti 311, senatori votanti 310, senatori favorevoli 233, senatori contrari 59, senatori astenuti 18, maggioranza 156, il Senato approva. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Ecco dunque la proclamazione del voto di fiducia al governo letta da parte del Presidente del Senato Piero Grasso. Da oggi, con il doppio voto di fiducia, il governo è nel pieno delle sue funzioni e dei suoi poteri. Ma intanto però scoppia già la prima grana, perché fatto il governo iniziano i problemi. E il primo problema si chiama IMU, l'odiata tassa sulla casa per il Popolo della Libertà. Silvio Assicurazione chiede che sia abolito e chiede assicurazioni, altrimenti dice non sosterremo il governo. Queste le parole del Cavaliere appena entrato questa mattina al Senato, ancor prima del voto di fiducia, quindi insomma assolutamente parole forti. Elisabetta, intanto ricordiamo il numero per gli sms ai nostri radioascoltatori: 349-238-6666. E abbiamo sentito le parole di Letta, anche preoccupato di attese miracolistiche per quanto riguarda il governo. Sentiamo allora quanto ha detto il Premier questa mattina. Mi sono reso conto che c'è un grande problema, c'è un carico di aspettative assolutamente eccessivo su questo governo rispetto a tutto quello di cui il Paese avrebbe bisogno e che è stato anche qui ripetuto, e rispetto alla oggettiva, e la voglio ripetere qui, fragilità di quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo. E queste sono le parole appunto di Enrico Letta. Attenzione, no, a non pensare che questo governo potrà fare miracoli, però anche c'è un monito a non stare fermi. Ricordiamo che Letta è uno dei presidenti del Consiglio più giovane e soprattutto a fare quelle riforme che servono al Paese. Sentiamo allora il Presidente del Consiglio. Non dobbiamo aver timore di fronte alle politiche. È possibile, è assolutamente possibile trovare soluzioni comuni. Anch'io avrei voluto un risultato elettorale diverso, ma la realtà che abbiamo di fronte è, credo, il principale tema che un uomo politico deve mettere al centro della sua azione. Il resto è tutto secondario. O c'è questa attenzione a innervare i valori che ognuno di noi ha in questa realtà, oppure raccontiamo a noi stessi delle favole per stare tranquilli e per toglierci i pesi dalla coscienza. Io credo che questo sia il tema principale della nostra azione. Grazie. Abbiamo sentito quindi parole di fermezza da parte del Presidente del Consiglio Letta, e questa fermezza oggi Elisabetta Letta la trasferirà già in Europa, nel tour che inizia in queste ore. Già questo pomeriggio sarà a Berlino dalla Merkel, domani a Parigi da Hollande, giovedì a Bruxelles da Barroso, la prossima settimana Letta sarà invece a Madrid da Mariano Rajoy, e giovedì, a ritorno dal viaggio in Europa, Letta dovrà affrontare l'ultimo scoglio della nascita del suo governo, la partita dei sottosegretari, probabile che si chiuda già nel fine settimana, al più tardi la prossima settimana, mentre già venerdì potrebbe esserci il primo Consiglio dei Ministri pienamente operativo, e chissà che proprio lì non si inizi a mettere le basi per la questione dell'IMU. Questo è il calendario, Vincenzo, ma poi bisogna anche dire che arrivano gli sms e sono molto divertenti i nostri radioascoltatori, perché dice: sono durati 2 giorni e questo è pensare al bene del Paese, vergogna, speriamo di no, troppe promesse, firmerei se ne facessero almeno la metà. Mirko da Verona, anche noi firmeremo, Mirko. E poi c'è da dire una cosa, che sull'IMU è intervenuto anche Angelino Alfano e dice: non c'è alcun dubbio da chiarire, c'è un fatto oggettivo, a giugno i cittadini non pagheranno la tassa sulla casa. E diciamo, chi gli ha chiesto: ma allora a dicembre raddoppia? E Angelino Alfano ha detto: no, assolutamente no. Insomma, questa dell'IMU è praticamente una questione centrale. Ecco, ma da dove è nato il nodo, ma anche l'incomprensione delle ultime ore? Letta ieri nel passaggio qui a Montecitorio aveva promesso lo stop alla rata di giugno e ricordiamo questa è una delle battaglie fondamentali per il Popolo della Libertà, ma poi c'è stato il ministro per i rapporti per il Parlamento Dario Franceschini che ha parlato di proroga insieme, insomma c'è stata un po' di confusione. Allora sentiamo proprio le parole di Franceschini. Valgono le parole del Presidente del Consiglio di ieri che ha riconfermato oggi prendendo la fiducia. Siccome il pagamento dell'IMU, della rata dell'IMU di giugno ha delle scadenze, per poter bloccare quel provvedimento, rinviando, ci vuole un provvedimento fatto entro pochi giorni perché sennò i comuni vanno avanti. E quindi in questa è la dichiarazione che ho fatto stamattina, rinvio, proroga, poi è evidente che affronteremo il nodo del destino dell'IMU, secondo le parole che ha deciso il Presidente del Consiglio, ma non si riesce a fare in due giorni o in tre giorni un'operazione strutturale sull'IMU. Si farà un decreto legge? Arrivederci. Ecco, abbiamo sentito arrivederci e ancora non ha detto Franceschini come intendono poi un attimo rimodulare questa tassa sulla casa. Intanto vi ricordo i nostri sms al 349-238-6666 e qualcuno già ci ha detto IMU sulla prima casa, sarei d'accordo ad abbassarla e poi magari in un secondo tempo pensare di toglierla. E invece c'è un radioascoltatore che dice ma perché i 5 Stelle non fanno un governo al PDL e si mettono dalla parte del PDL? Perché il messaggio non è chiaro, ma insomma in questo momento vediamo un attimo se il governo intanto riesce a fare qualcosa per il paese. Votata la fiducia al governo Letta, da domani possono iniziare a litigare. Gian Battista, vedo un ottimismo. Ottimismo, anche se però bisogna ricordare che le parole di Franceschini avevano un fondamento laddove lo abbiamo ascoltato, lui ricordava i problemi in cui si troveranno i comuni italiani nel non avere certezza sulle imposte che poi sappiamo trasferiscono a tutti i servizi che danno a noi cittadini. Sappiamo i comuni avere anche il problema della TARES, delle altre imposte molto importanti, anche questa qui è stata rinviata e quindi soldi che mancheranno ai comuni e soprattutto manca la certezza per effettuare delle spese. Anche perché da parte di Bruxelles è subito arrivato un monito all'Italia, Vincenzo, hanno detto subito sì va benissimo il governo Letta, sì va bene l'Italia, non muore di rigore, come ha detto ieri il Premier, però attenzione, non va cambiato il patto di stabilità, non va cambiato praticamente l'attenzione ai conti pubblici, quindi vediamo. Però intanto Silvio Berlusconi oggi il suo primo voto di fiducia al Senato, perché ricordiamo il leader del PDL in questa legislatura è un senatore, insomma si è tolto questo sassolino dalla scarpa perché insomma ha detto non è possibile, noi abbiamo votato un governo per abolire l'IMU. Intanto veniamo all'opposizione, perché da oggi ufficialmente c'è un'opposizione molto pesante, un partito che rappresenta, anzi un movimento che rappresenta il 25% dell'elettorato e per il Movimento 5 Stelle ha parlato nell'aula del Senato il capogruppo Vito Crimi, sentiamo cosa ha detto. Troviamo anche noi ministri in settore chiave, ma non tutti con competenze specifiche, alcuni dal curriculum improbabile se si esclude la militanza di partito. Il programma è quantomeno aleatorio e verosimilmente sarà ostaggio di veti incrociati e mercanteggiamenti dei partiti, ognuno protesa a conquistare un successo di Pirro da spalmare sui media. Doppi fini personali traspaiono invece dietro le cortine mediatiche, nessuna presa di posizione chiara sull'ineleggibilità di Silvio Berlusconi e sul conflitto di interessi. Non daremo dunque la nostra fiducia perché essa impegna chi la concede ben più di chi la raccoglie. La nostra proposta di metodo non è stata accolta. Ora ci confronteremo sui contenuti e su questi, malgrado tutto, ci troverà sempre responsabili per il valore che diamo a questo termine. Siamo appena entrati nei meccanismi di questa macchina elettorale e in questi meccanismi potremo essere olio oppure sabbia. Saremo olio tutte le volte che le azioni saranno volte all'interesse collettivo. Saremo sabbia negli ingranaggi ogni volta che prevarranno interessi di parte. Grazie. E quindi abbiamo ascoltato le parole di Vito Crimi, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Elisabetta, quindi olio o sabbia da parte del Movimento 5 Stelle? In effetti, sia ieri qui a Montecitorio che oggi al Senato faremo opposizione, ha detto il Movimento 5 Stelle, ma non mi sembra, ecco, almeno nelle parole, un'opposizione che starà lì ferma indipendentemente da quello che presenterà il governo. Evidentemente il Movimento 5 Stelle su ogni provvedimento valuterà. Ricordiamo un altro cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, la formazione delle commissioni, che in saranno? Quelle che saranno già dalla prossima settimana, il in martedì. Quelle potremo già vedere se ci sarà un minimo di collaborazione tra questa strana maggioranza che governa il paese e il Movimento 5 Stelle. Probabilmente potremo avere anche delle sorprese. Sì, anche perché Crimi ha detto una cosa che loro hanno sempre ribadito, in effetti, no? Loro hanno detto: noi non avete accolto il nostro metodo, che era quello di votare i provvedimenti volta per volta, però noi sappiamo che la nostra Costituzione impone un voto di fiducia e che quindi quella loro proposta è caduta nel nulla. Però Crimi l'ha ricordato, cioè il momento che ci sarà da votare qualche provvedimento invece importante, noi lo faremo, saremo olio, saremo sabbia, no? Sembra un po', ti ricordi quel film famoso di Carlo Verdone, questa mano può essere piuma, può essere roccia, insomma anche Crimi ha detto questa metafora anche abbastanza importante. Però nel Movimento 5 Stelle c'è qualcuno che Crimi invidia, lui dice, ma noi non ci crediamo ovviamente, noi stiamo dicendo che c'è stata un'espulsione, Marino Mastrangeli, e dice che lui è stato espulso perché Crimi lo invidia. Ci, diciamo così, permettiamo qualche dubbio a questo proposito, però sentiamo anche Mastrangeli. Io ho firmato evitare la partecipazione ai talk show televisivi, non ho mai partecipato a un talk show televisivo, ho solamente rilasciato delle interviste giornalistico-televisive. Ripeto, se io adesso esco di qua e questa intervista poi va in onda, non so io, a Ballarò, a Servizio Pubblico, a qualsiasi altro talk show televisivo, che faccio? Vengo espulso perché vado in onda? Io ho fatto la stessa cosa, ho chiesto esattamente questo, di non essere, di non partecipare al talk show televisivo. Le regole non le ho violate, ma poi nella forma, qui non c'è un verbale di questa votazione, poi non c'è la maggioranza, lì c'è una versione dei fatti che non è vera, ma qui non ci sono delle regole di giustizia. La mia versione dove sta scritta? Sono costretto a fare una conferenza stampa, ma voi mi sembra Italia o Corea del Nord questa? Le metafore è Italia o Corea del Nord, ci sembra Italia, senatore Mastrangeli. Vincenzo, ci sono molto radioascoltatori. Molti messaggi dei nostri radioascoltatori al 349-238-6666, mi sembra un po' tutti critici nei confronti del governo, ora che hanno inciuciato non possono tirarsi indietro, via l'IMU ed Equitalia, le tasse si pagano quando il lavoro c'è. E quindi in teoria adesso non c'è, e quindi il nostro ascoltatore consiglia al governo di andare dritti sulla strada di togliere questa tassazione molto pesante. Questo governo avrà lunga vita, tutti otterranno qualcosa, le poltrone sono ben divise, ci scrive un altro ascoltatore, sono dei pagliacci, accusa Rosario, e poi solo un governo commissariato potrà fare qualcosa, la troica ovviamente, accettiamola, è la cruda verità. E poi ancora solo una grande guerra contro questi politici, non è la povera gente che può dire fine a questa presa in giro. Quindi questo ascoltatore ci dice che i politici ci stanno prendendo in giro, Elisabetta. Ora che hanno inciuciato non possono tirarsi indietro, via IMU ed Equitalia. Allora, che cosa ne pensa dell'IMU il movimento, scusate, il partito Scelta Civica? Sentiamo Andrea Olivero. Ma io credo che sull'IMU si debba procedere con una riforma che vada a togliere l'IMU per una grande parte delle abitazioni di prima casa, ecco. Per cui andando a sgravare fortemente comunque le famiglie, soprattutto le famiglie di ceti medio e medio bassi. Questa è la scelta che secondo me è più saggia, perché non si esauriscono tutte le risorse in questa maniera, che di cui c'è grande necessità in altri ambiti. E chiudiamo con un ultimo radioascoltatore. Vedo bene Mastrangeli con la Santanchè in TV nel PDL, lo vediamo bene anche noi. Un saluto da Elisabetta Fiorito. Un saluto da Vincenzo Miglietta.